penso dalla prima settimana lesbica che ci siamo incontrate, e quindi era il 91. Dal 91 in poi la conoscenza si è andata ad approfondire e poi ci sono stati una serie di eventi delle nostre vite che ci hanno fatto intrecciare su vari piani. E questa è la sua opera prima, che spero non sia l'ultima, naturalmente. Perché questo? Perché intanto devo dire che la scrittura di Cristina, poi ho una miriade di domande da farle, la scrittura di Cristina è fresca, immediata, è un dialogo. Cioè, tu leggi il libro e c'hai Cristina davanti che ti sta parlando. Allora, la cosa fondamentale qual è? È che a me mi ha rimandato immediatamente a quello che succede tra lesbiche. Le lesbiche, quando si incontrano, ovviamente in situazioni amicali, si raccontano. La cosa fondamentale tra lesbiche è riconoscersi nel racconto, dirsi. Quando ti è successo, come ti è successo, quando te ne sei accorta, da quando te ne sei accorta, e via discorrendo. Ma la prima volta, ma il primo palpito, insomma, lei dentro Stop Movie, poi dice il sottotitolo, l'ingrato compito di vivere al passato, voi ce lo ritrovate tutto questo, cioè ritrovate questa immediatezza. Per noi lesbiche il raccontarci è un fatto fondamentale. Ecco Giovanni, noi ti stavamo aspettando, abbiamo... Aspetta. No, scherzo. Allora, per noi il raccontarsi è qualcosa di fondamentale. Direi su due fronti, su due piani. Da una parte è... la vita è vitale perché ci permette di dire non sono l'unica. Non sono l'unica lesbica al mondo, o non sono stata l'unica. Quando tu scopri negli anni, negli incontri che fai, che tu guarda, ma allora anche quell'altra provava le stesse cose che provavo io. Pure quella faceva e via discorrendo. Allora, sai che non sei stata l'unica e quindi rimetti insieme come un puzzle, il tuo interno si ricompone e rimetti insieme i tuoi pezzi. E poi è catartico, cioè quindi non sono così strana io o così, vabbè, altri termini come deviata oppure pazza oppure che ne so io, insomma, sbagliata e via discorrendo. No, perché ce ne sono tante come me. Quindi a questo ci serve il racconto. E su questo piano non solo, ci serve a identificarci, e quindi a costruire non solo l'identità ma anche la soggettività. A questo proposito, Cristina, vorrei partire subito con dei pezzetti, non ve lo leggerò tutto naturalmente, e soprattutto... Il finale no. No, il finale no, anche se mi sarebbe piaciuto, ma non posso svelarvi che l'assassino è il maggiordomo, però vi voglio leggere alcuni pezzettini che ho trovato gustosissimi, soprattutto a proposito del processo di identità. Sicuramente ci sono, alcune di noi si riconosceranno. Qui Cristina si racconta: quando andavo dalla cartolaia a comprare soldatini, il mio disprezzo si abbatteva imparziale su nordisti e sudisti. La signora Tiziana aveva tentato invano di interessarmi agli ultimi modelli di bambole parlanti, dotate di corredini estivi e invernali, poi si era rassegnata. Potevo quindi scegliere tra gli esemplari più aiutanti, alcuni in sella ai Mustang domati, altri col braccio teso nell'atto di scoccare una freccia, altri ancora col corpo proteso in avanti, i muscoli delle cosce scolpiti nello slancio poderoso. Diventai una sostenitrice della causa indiana contro i bambini del cortile, che recitavano nei panni dell'esercito nemico, e riportai una serie di sfolgoranti vittorie, mettendo in atto imboscate che avevo imparato al cinema. Mentre le bambine giocavano la signora Marchesa, io, toro seduto, ero il grande capo della nazione Lakota. La separazione tra bambini e bambine era una realtà che io giocassi con i primi. Ho sbagliato? No, scusa, era una realtà. E che io giocassi con i primi era naturale quanto la mia indero, lo sa a memoria. Funzionava simpaticamente. Non è che lo sa. Volevo che si sta attenta. Se i capelli corti non erano stati determinanti per l'accettazione del gruppo dei maschi, lo erano state le mie gambette sinistre, il mio scatto fulmineo e il mio istintivo schierarmi tra di loro. A conti fatti, spirito atletico, sprezzo del pericolo e soprattutto capelli e calzoncini corti avevano dissipato i dubbi di entrambe le parti sulla giustezza della mia collocazione. E questo, diciamo così, è l'antefatto. E va bene. E poi il libro è diviso in tre grandi filoni, no? Il primo, poi ti farò le domande su questo, che si chiama il pantano, il secondo la foce e il terzo è l'onda. A me interessa in particolar modo la foce, perché riguarda inquadra l'aspetto della militanza. Ora, l'ho detto all'inizio, la militanza è stata la parte che più di tutti mi ha attirato, mi ha coinvolto, nella quale sono riconosciuta in parole povere. Allora, non la voglio tirare tanto per le lunghe, però le cose che ha raccontato Cristina sono tante rispetto alla militanza, tante rispetto all'impegno e soprattutto tante anche rispetto a un modo di essere in quegli anni, negli anni 90. Allora, io vi rimanderò al libro, a leggerlo nel libro, più che a dirvi tante cose, però un pezzo un pochino più lungo, assolutamente esilarante, io ve lo voglio leggere, perché dà il senso anche della scrittura di Cristina, lieve, interessante, centrata assolutamente, perché tratteggia tutta una situazione che storicamente è stata proprio così, ma la tratteggia con una levità e un'ironia, ma soprattutto una levità in cui non puoi fare a meno di riconoscerti, perché l'hai proprio partecipata, l'hai vissuta così, ma con tutta la serietà che ci abbiamo messo tutte quante, e oggi con un po' di distanza ci puoi riconoscere dicendo anche, beh, insomma, siamo state anche questo. Allora, ora questo nostro mondo in gestazione sperimentava altri linguaggi, altre modalità di relazione, parliamo degli anni 90, rifuggiva dal concetto di regola, anche se dettato dal buon senso, e aboliva l'idea di una leader che per esperienza e capacità coordinasse il gruppo, perché ognuna sapeva gestirsi per conto suo. Per il mantenimento di un clima gioviale era indispensabile evitare di menzionare titoli accademici o abilità conseguite alla scuola dei padri. Ognuna, per il fatto di essere lesbica, era autoreferenziale in tutte le aree delle umane discipline. Si scatenava il putiferio se si usava accennare al fatto che una sintassi corretta non era un pezzo piccolo borghese o una norma castrante della libertà individuale, bensì un metodo di buona scrittura che serviva alle volte a rendere comprensibili i documenti scritti. Dovendo ricominciare tutto da capo, come se nulla ci avesse preceduto e la nostra esistenza cominciasse in quel precedente istante, dovevamo azzerare curricula scolastici, professionalità e sbuzzo personale, in nome della totale uguaglianza. Per la crescita comune era preferibile ricominciare da zero, reinventare la ruota, la radro, la clessidra e la leva. Non chiamavamo scambio di saperi e una volta compreso il meccanismo non era difficile barcamenarsi. Chi sapeva scrivere doveva scrivere le melanzane per la cena di autofinanziamento. Chi sapeva cucinare doveva sbobinare gli interventi dell'ultimo seminario in cui pensieri complessi si avanzavano disperforate con le azioni linguistiche. Chi era timida doveva rappresentare la posizione del gruppo in un dibattito pubblico. Chi non sapeva tenere in mano un pennello doveva dipingere il fiato sullo sfondo di un colonnato greco. Chi soffriva di vertigini e ignorava i più elementari collegamenti elettrici doveva salire sulla scala a fiori e addobbare con palle psichedeliche il salone della festa. Chi non era al corrente delle ultime decisioni doveva affrontare i giornalisti in conferenza stampa. chi era suonata con una campana, ma sapeva smontare e rimontare un computer dove cantare lo spettacolo del sabato sera e così via, in un'indemoniata Babele nella quale ognuna si esercitava principalmente in quello che non sapeva fare. L'alternanza dei ruoli avrebbe infine prodotto la crescita collettiva e con predicazione attendemmo che succedesse. D'altra parte, che gusto ci sarebbe stato e quale insegnamento ne avremmo tratto se dei letterati avessero scritto, le cuoche avessero cucinato, le musiciste avessero suonato, le elettriciste avessero collegato, le teoriche avessero teorizzato e una buona volta le politiche avessero rappresentato il gruppo all'interno e all'esterno del movimento? Ma il pericolo che questa serie di eventi si avverasse era di sicuro infondato. Nessuna avrebbe mai permesso che accadesse, a costo della propria vita. Perciò continuavo a deprecare la lungimiranza delle storiche, le riflessioni delle filosofe, la chiarezza d'idea delle militanti più anziane e ad apprezzare, come l'apice della correttezza, le posizioni neutrali delle astensioniste, grazie alle quali i confronti politici si concludevano con un nulla di fatto. Pian piano i pilastri della nostra pratica politica cominciarono a vacillare e si fece largo il pensiero rivoluzionario di mettere le donne giuste al posto giusto. Ma a questo punto non ne trovavo neanche una. Un panico, ma era solo questione di pazienza. Aspettate perché non è finita. Poco dopo ne arrivarono a frotte e fummo costrette a una rigorosa selezione. In breve ci ritrovavamo in quattro gatte, sempre le stesse, a chiederci se non fosse arrivato il momento di arruolarci in Greenpeace o nell'UWF. Bei tempi negli anni 90, eravamo giovani, generose e convinte che ce l'avremmo fatta. Bene, io ho trovato questo pezzo non soltanto ironico, divertente, ma veritiero. Eravamo proprio così, delle pazze scatenate. Però è proprio vero che credevamo nell'utopia talmente tanto che abbiamo provato a ribaltare il mondo, a ribaltare i termini della questione. Abbiamo sperimentato di tutto e quindi abbiamo provato a cambiare tutti i termini della questione. E poi c'è stato il fallimento. Oppure non è stato un fallimento, abbiamo dovuto rimescolare le carte e oggi quelle che siamo, lo dobbiamo anche a quello che abbiamo fatto. E quella che avete appena ascoltato era la presentazione, parte della presentazione che aveva fatto Lucilla. Ascoltiamo invece ora la prima risposta di Cristina. Ho piacere di dire due o tre cose per, come dire, inquadrare tutta questa vicenda della scrittura del libro, partendo semmai anche dal titolo. Però visto che abbiamo un attimo sottolineato chi era Marina e chi non era Marina, c'è questo brevissimo dialogo proprio nel primo capitolo. Mia madre è appena morta e io arrivo a casa da Marina e dico: mia madre è morta, spiegati meglio. Marina mi scrutava attentamente: è morta mia madre? Calma un attimo, fammi capire. È morta? In che senso? In quello? Cerchiamo di ragionare a mente fredda. Potrebbe trattarsi del solito falso allarme oppure di un trabocchetto. No. No cosa? È la verità, l'ha scoperta Angela. Non potevi dirlo subito? Un'altra che non ero io. Dunque, ok. Sì, è importante che vi dica alcune cose. Perché questo qui, in realtà, è un libro che parla di, diciamo, raggruppa esperienze veramente estreme. Insomma, ho avuto questa fortuna nella vita, altre persone come me hanno avuto questa fortuna nella vita di attraversare, delle tappe veramente difficili. Detto questo libro non sarebbe sopportabile se appunto la narrazione e il tipo di linguaggio che è stato usato per attraversare questi episodi drammatici non fosse parte integrante della narrazione. Quindi non è possibile parlare di questo libro paradossalmente a priori, prima di averlo letto, perché la scrittura funge in questo caso come come un pronto intervento di pompieri, cioè butta sempre acqua sul fuoco. C'è un incendio continuo, non so se fuori insegni questa metafora, che viene costantemente spento, altrimenti sarebbe impossibile. E poi è un libro in cui si scherza anche tanto, insomma, perché fa parte della vita, riuscire, come dire, l'ironia e anche la comicità sono un modo per elaborare episodi, situazioni, eccetera. Ok, questo oggetto è praticamente rappresenta la conclusione di un sogno, che io avevo quando ero piccola, adolescente. Tra l'altro è una specie di loop questo oggetto, perché rappresenta, infatti lo spero anche di strappare il suo sorrisetto, perché questo qui è un autoritratto che io mi sono fatta, mi sono autofatta nel 1976, eccetera, eccetera. Il libro l'ho scritto io, perché questo si sa. La copertina, cioè la grafica, l'assemblaggio, l'ho fatto io, però non ce l'abbiamo scritto perché io e l'editore ci siamo andati in pace e dicendo che faccio? Ci vogliamo mettere anche un DVD con le canzoni che hai scritto nel corpo, poi ci facciamo un inserto fotografico con le fotografie e dice vabbè, allora facciamo schifo. Però abbiamo giocato su questo, cioè questa operazione è stata svolta con consapevolezza. Tutta la scrittura, e qui vengo anche a un altro punto che mi piace sottolineare, perché poi il bello è che in effetti ognuna sottolinea le parti che più l'hanno colpita, eccetera, eccetera. In realtà ci sono diversi filoni, allora io vi accenno alcuni di questi filoni che a me interessano molto e che non sono stati toccati da lei e che hanno a che vedere col titolo. Allora, questo qui è un titolo autoesortativo. Stop movie vuol dire ferma questo film, fermalo, perché se non lo fermi continui a vivere nel passato. E infatti l'ingrato compito di vivere al passato è praticamente il tema di questo libro, che smentisce peraltro, la cui stesura smentisce, è impegnata a smentire la frase, questa citazione iniziale da Marion Zimmer Bradley, la quale dice proprio nella prima parte, c'è una sorta di prologo slegato da tutto che poi verrà ripreso alla fine. Dice Marion Zimmer Bradley in questi suoi fantasy, che sono sempre delle cose meravigliose, perché naturalmente lei è una grandissima attrice, quindi in realtà sono delle cose psicologiche fortissime. C'è questo tizio, questo monaco, che dice a questo allievo, dice: il potere che siete venuti a cercare qui è il potere sulle cose dell'interiore. La pace verrà solo quando vi sarete reso pienamente conto del fatto che i pensieri non vengono dal di fuori, essi vengono dall'interno e perciò sono soltanto vostri. Sono le uniche cose di questo universo su cui è legittimo esercitare il controllo assoluto. Siete voi e non i vostri pensieri, i vostri ricordi, a dominare la vostra mente. E siete voi e nessun altro a ordinare loro di andare e venire. Il narrante di questo libro non è in grado di fare questa operazione. E dunque soffre di non riuscire a vivere nel presente. Ed ecco che da qui nasce il sottotitolo L'ingrato compito di vivere al passato, perché rigira scena dopo scena, e da qui stop movie, altrimenti non riesce ad andare avanti, e la scrittura in effetti slitta costantemente, c'è un slittamento costante, anche se poi è diviso in tre tappe, è vero, poi spiegherò perché, e queste altre tre metafore della palude e la foce d'onda, in effetti c'è questo continuo slittamento della narrazione tra passato e presente, che è un tentativo di far toccare con mano il funzionamento del cervello, no? Che un funzionamento del cervello può essere anche pericoloso, cioè anche una sorta di stato patologico. Un'altra delle, infatti un altro dei filoni del romanzo, sempre trattato con sufficiente levità, nel senso che appunto, per esempio nell'Incipit mia madre è appena morta, però insomma diciamo che c'è una sorta di giubilo letterario, accoglie lo studente e così via. C'è l'elemento della, appunto, della malattia mentale. Mia madre, poi parlerò anche un attimo di questo, poi mi fermo un attimo. Mia madre era decisamente una borderline, ma il problema non è tanto che fosse mia madre, cioè il problema, molti mi hanno chiesto, adesso qui ho un'intervista da un giornale latino-brasiliano dove mi fanno una domanda, dice: ma tu tutte queste cose personali, perché... Allora, io penso che i temi trattati in quest'opera partono da un'esperienza personale, ma sono assolutamente condivisibili, quindi io non credo assolutamente di essere stata l'unica ragazza che ha avuto una madre borderline, come non credo assolutamente di avere avuto, tra l'altro c'erano anche altri pazzi in famiglia, eccetera, eccetera. Cioè, con questo non mi sto ponendo al centro del mondo con le mie sofferenze, anche perché poi mi sembra che in questa corsa a ostacoli l'eroina, la protagonista, esca, come dire, con una certa scavalleria, insomma, no? Sì, è anche un po' di incoscienza, ma questo poi fa parte del finale di cui magari parleremo. E dunque io ho risposto a questo giornalista brasiliano che non mi sembrava che temi come, per esempio, l'oppressione, la famiglia castrante, fossero temi personali. Mi sembravano, al contrario, temi assolutamente condivisibili come tanti altri. Quelle che ascolterete di seguito saranno ora due interventi che sono stati fatti durante la presentazione. Il primo è di Rosina, la nostra Rosina, The Voice, che ha voluto per forza leggere un brano del libro, perché essendo lei un amante degli animali si è trovata molto d'accordo con le emozioni, le sensazioni e le visualizzazioni che quel capitolo le aveva prodotto. L'altra invece a seguire sarà l'intervento che ha fatto Giovanna Olivieri, quindi ascoltiamo insieme queste due compagne che sono intervenute alla presentazione. Se volete che si leggano degli altri piccoli brani, per esempio quelli sugli animali, perché dovete sapere che ci sono dei pezzi sugli animali che sono veramente spassosi, e che sono gli altri protagonisti del libro, direi assolutamente sì. Intanto devo dirvi che qui c'è Rosina del mio gruppo, che è meglio nota come The Voice, perché alla radio è sempre una delle più apprezzate, quindi leggendo lei. Allora, io sono un amante dei pelosi, che appunto definisco i miei figli di pelo. Come diceva prima Lucilla, per le lesbiche spesso gli animali sono appunto i figli dell'altra specie. Mi viene in mente, quando metto questo brano del libro di Cristina, mi è venuta in mente una vignetta di Sara Delli Falconi, che era nel libro di Vigneto, la vignettista che all'epoca stava nel clip. C'è questa vignetta dove ci sono due donne nel letto che parlano fra di loro e dicono: come sarebbe bello sentire un rumore di piedini in questa casa. E poi c'è la nuvoletta sulla testa di una, che appunto immagina dei bambini che scorrazzano, e sulla testa dell'altra tutti questi gatti, pinguini, cose, animali di vario tipo. Allora, io Marina l'ho conosciuta e quindi ritrovarla così nel libro veramente mi ha fatto un certo effetto, perché mi sembrava davvero di vederla ergersi con il suo ditino a dire le cose. E questo brano, secondo me, la descrive proprio così com'era, così come l'ho vista io, come l'ho conosciuta lì. Questa è Marina, l'incipit è così: ho deciso di prendere due gatte torinesi, disse un bel giorno Marina. Torinesi? Non capisco perché tu debba avere ben tre animali, il Pici, Palli e Isi, e io nessuno. Sai bene che gli animali sono nostri, anche se stanno a casa mia. Ma io ho bisogno di avere animali per casa, li ho sempre avuti, e il più intelligente, che tu ci creda o no, è stato un coniglio. Gli mancava solo la parola. È per questo che non voglio che mangi il coniglio in mia presenza, e se lo fai in mia assenza sei una cannibala. Maria mi dava le spalle mentre girava il mestolo nel sugo. È un'idea folle. Perché? I nostri problemi aumenteranno e gli spostamenti saranno ancora più difficili. Ed è anche per sogno, ho già calcolato tutto, la persona che manderai tuoi farà il giro anche dai miei. 5 sono un'esagerazione, 3 là, 2 qua, ma dove andremo a finire? Anch'io ho diritto a un po' di compagnia felina. Marina, non vedi che vita facciamo? Sempre chinata a terra, a pulire cacche e vomiti, ad affamottolare polpetti di carne e carote, non lo so. Non mi sembra ragionevole, e ora con Isi pensavo che fossimo al completo. Tu sei al completo, io no. Lasciar perdere, salvo chiedere chiarimenti su un particolare. Cosa vuol dire torinesi? Torinesi vuol dire che stanno arrivando da Torino. Stanno arrivando, ma allora hai già deciso. Te l'ho appena detto, non ti ricordi? Ho detto ho deciso di prendere due altri torinesi. Quando uno dice ho deciso di, esprime un proposito. Non è detto che l'abbia già fatto. Parli come se non mi conoscessi. Pensavo che potessimo discuterne. Infatti ne stiamo discutendo. Suonarono alla porta. Eccole. Io mi fermerei qui anche se insomma, devo dire, battezzo le gambe e butto la pasta, secondo me è la cosa più bella. Va bene, questa è la Marina e questi sono una parte degli animali. Poi tra l'altro c'è questa, io dico, questa figura di Isirai, la loro canetta, che mi ha fatto molto ridere ma anche molto piangere. Comunque, fino a qui, grazie. Cioè, devo dire che questo secondo libro l'ho letto appena uscito e poi però l'ho prestato, quindi non faccio proprio citazioni sul ricordo, me lo sono letto tutto appena arrivato a casa, questo pomeriggio molto bello sul terrazzo, col sole, eccetera, eccetera. Ed è appassionante, cioè mi succede raramente di prendere un libro e di volerlo finire perché non posso lasciarlo lì. E ci sono due cose che volevo aggiungere alle cose già dette. Ci si identifica in questo libro per alcuni di noi che hanno vissuto la politica, poi per quelli di noi che hanno avuto una madre castrante, poi per quelli di noi che hanno avuto un padre assente, poi per quelli di noi che hanno avuto un processo complesso di passaggio dall'eterosessualità al lesbismo. Ci si identifica per chi ha avuto tanti sogni che poi in qualche modo ha dovuto abbandonare, no? E quindi in questo senso direi che pur credo non essendo mai stata femminista, Cristina Zanetti ha fatto proprio il motto il personale e politico. Solo così, essendo appunto un personale estremamente canalizzato e quindi partire da sé, in questo senso io lo considero un romanzo e non un'autobiografia, ha costruito una serie di passaggi attraverso i quali in modo ironico, comico, con quella lievità di cui si parlava prima, che io identifico come il gentiluomo che ha a che fare con donne e donne contro donne, no? Sempre questo atteggiamento estremamente rassegnato in qualche modo, nello stesso tempo gentile, cortese, che cerca di capire le ragioni di un mondo che forse non conosce così bene, perché appunto è sempre stata con le ragazzine e in certo qual modo alcuni tipi di donne gli sembrano abbastanza degli oggetti misteriosi, no? E quindi la malattia mentale di cui si parlava prima è secondo me un elemento che in qualche modo è lì come un incubo, ma nello stesso tempo è anche come una via di uscita, no? Perché diciamo, in tutto questo girovagare che lei fa fra varie esperienze, la scrittura, la musica, la pittura, eccetera, eccetera, c'è sempre un po' dietro l'angolo che un fallimento avrebbe semplicemente confermato che in qualche misura la nave famiglia aveva colpito ancora, no? E invece c'è un'enorme forza dietro a questa, diciamo, eventuale uscita, no? Per cui tutte le volte come se mettesse da parte alcune cose, ma poi ci ritornasse su, prendendo in qualche modo quello che passa in quel momento come un'occasione per riprovare, come con io ci ho sentito tantissimo una specie di fatica di canto a certi momenti, no? A sconfermare quella che era insomma una profezia abbastanza scritta. In più volevo dire questo come accenno, che è uno di quei libri in cui finalmente si analizza il rapporto con una madre castrante, che non solo, ma che voleva proprio che la figlia fosse infelice in qualche modo, e senza nessuna concessione a questo buonismo che io trovo sempre abbastanza stucchevole, no? Perché in genere le donne lesbiche hanno sempre avuto delle madri neganti, e credo che invece avrebbe analizzato in un modo molto approfondito il perché abbiamo bisogno di questo riconoscimento materno, e quando non ci viene concesso ci ostiniamo a non vederlo, a dire vabbè, ci sono dei motivi chiaramente, no? E quindi questo rapporto con la madre lo trovo estremamente ben descritto, analizzato con lucidamente, criticamente, eccetera. E sulla prosa di Marina, invece, sulle figure di Marina, per chi l'ha conosciuta come noi, credo che l'aspetto più interessante sia appunto questo suo modo di guardare Marina, in una maniera estremamente critica e affettuosa, perché non manca la maniera critica di vedere Marina, però nello stesso tempo, come dicevo prima, affettuosa, appunto come il famoso gentiluomo che guardava una donna molto dura di comprendere. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo numero che vi ho dato è anche un telefono fax e segreteria telefonica. Oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B, 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra email, che è contatti@clrbp.it, ed il nostro sito web, che è www.clrbp.it. Il numero per gli SMS è in via di ripristino, e se, come diciamo sempre, le cose che avete da dirci sono molte, potete inviarci anche un'email all'indirizzo di posta elettronica che, vi ripeto, nel caso non aveste fatto in tempo a scriverlo, che è contatti@clrbp.it. Vi promettiamo che a partire da gennaio, come si dice, anno nuovo, numero nuovo, avremo il numero di un cellulare sul quale mandare i vostri SMS con i commenti e i suggerimenti, ma anche in improperi, noi accettiamo tutto. Comunque vi ripetiamo anche il numero della radio, qui di Radio Onda Rossa, sul quale potete telefonare fino alle ore 22, che è lo 06 49 17 50. Even though that it alone does not equate wisdom, you see every bene, mi rendo conto che per le amanti della musica questa sera veramente stiamo facendo delle tirannie incredibili mettendo soltanto dei piccolissimi tratti musicali. Solo che il tempo è tiranno e a noi preme veramente fare un resoconto dettagliato dell'iniziativa fatta per la presentazione del libro di Cristina Zanetti, che mi rendo conto che non ho mai nominato, dal titolo Stop Movie. Adesso a seguire sentiremo altri due interventi, anzi un mio intervento, una domanda che ho fatto io e la risposta di Cristina, e poi un altro pezzettino di musica e poi le conclusioni di Lucilla, se ci stiamo nei tempi a nostra disposizione. Comunque ascoltiamo adesso un altro stralcio preso dall'iniziativa, dalla presentazione del libro Stop Movie. Allora, io volevo dire un paio di cose rispetto al libro. A me anche è piaciuto tantissimo, no? Però volevo precisare che nonostante anch'io abbia avuto in più occasioni leggendo il libro di vedere materializzarsi davanti a me Marina, perché l'hai descritta veramente in maniera esemplare, non ho mai perso di vista che la protagonista del libro non era Marina Ritù. E questa è stata una cosa fondamentale che mi ha permesso anche di riconoscermi in molti aspetti e molte parti delle esperienze di vita che tu hai fatto, seppure io le abbia fatte in contesti diversi. Cioè tutto il periodo della militanza politica, no? Leggendo quelle esperienze che tu citavi e che hai letto anche prima Lucilla, no? Del se sei in una teorica vai a friggere le melanzane, beh, io le ho fatte le grigliate, ho fatto la sbobinatura, ho fatto tutto, senza riuscire poi a fare per niente, perché non era, come dire, la mia specialità, ecco. Però è servito per crescere e siccome ognuno di noi è il risultato della propria storia, noi abbiamo avuto una storia molto comune ed è una cosa nella quale io mi sono riconosciuta tantissimo. Però volevo farti anche due domande, perché visto che gli ambienti che noi abbiamo frequentato hanno avuto delle similitudini, io ho avuto nella mia vita la fortuna di conoscere te, e sono molto contenta di questa esperienza, ma anche il Festival di Immaginaria. Allora, leggendo il tuo libro mi sono resa conto che Immaginaria è stata fondamentale e importantissima per una tua crescita. Mi preme dirti che anche per la mia crescita è stata fondamentale Immaginaria, perché mi ha dato la possibilità di vedere che la possibilità che un progetto si potesse realizzare con donne, per donne e tra donne. Io ero una fruitrice del festival, però è stato altrettanto importante poterlo toccare con mano. Ecco, io mi rendo conto che si è parlato di immaginare in questo libro perché è stato un pezzo della tua vita, quindi si è parlato di immaginare perché tu stavi parlando della tua vita. Io ci tenevo in modo particolare attenta alla domanda, Gianni, che ti arriva. Allora, la cosa bella che a me è venuta subito come una cosa importante per aver partecipato a diversi festival di immaginario, perché penso di averli fatti tutti quanti, ad eccezione del primo, è stato proprio il vedere che c'era uno staff dove ci sono donne che a livello assolutamente gratuito facevano la realizzazione di un progetto. E quindi volevo sapere da te un pochettino più sull'organizzazione di questo festival, proprio per far vedere l'importanza che ha avuto, e ti ripeto, non soltanto alle donne che facevano parte dello staff, ma anche alle donne che partecipavano al festival. L'altra domanda invece è proprio una semplice curiosità mia personalissima e aspetto la risposta, perché è vero che in questo libro c'è stata questa figura predominante che era Marina, però come giustamente ha fatto notare anche Lucinda, c'è stata una serie di donne altrettanto importanti. Beh, a me ha colpito in modo particolare anche un'altra donna, l'anestesista, che è quella che segna la tua rinascita. E come abbiamo detto anche all'inizio, il libro non lo possiamo leggere dal finale, se lo diciamo adesso non abbiamo più neanche una copia, per cui non credo sia il caso leggere il finale di questo libro, però sono molto curiosa di sapere che fine ha fatto l'anestesista. Credo che sì, hai colto qual è la posizione di immaginario all'interno di questo libro. Infatti è chiaro che un romanzo sottende tutta una serie di scelte molto precise. Allora, noi abbiamo fatto 12 festival, io potevo fare un libro a festival, perché c'era materia per scrivere un libro a festival. Se invece hai notato, c'è solamente, perché era funzionale all'interno della cavalcata negli anni che si viene a percorrere, era funzionale fermarsi sull'ottavo festival, quello del 2000, perché poi viene richiamato il Gay Pride, eccetera. Quindi sono molte le cose che sono state omesse, ma che probabilmente spingono da là, cioè ci sono comunque, anche se non sono nominate tutte le persone, tutte le donne che hanno fatto di questo evento quell'evento mitico che è stato, e che cercheremo di far rinascere in qualche modo, non si sa, magari proprio grazie a questo, perché una delle funzioni di questo appare qua nella mia intenzione, ha alcune funzioni che poi, oltre ad andare a soddisfare un mio narcisismo personale, una serie di funzioni che io ho proprio individuato molto chiaramente, tant'è che la stesura di questo romanzo è cominciata nel 2004, quando Marina stava ancora benino, quando ci fu un anno di interruzione del festival, ne abbiamo fatti 12, il 2004 fu un anno di sospensione, poi facciamo l'ultima edizione, la 12ª del 2005, e lì ho cominciato a capire che cominciavamo a fare acqua da tutte le parti, e che avrei dovuto, vabbè adesso chiedo scusa, che avrei dovuto in qualche modo salvare la nostra storia. E dunque è successo che, e proprio nel senso di trasmetterla, perché io ero e sono terrorizzata dal fatto che non venga ricordata. Sarebbe una cosa assolutamente ingiusta. Quindi questo affare, come qualcuno ha giustamente detto, sì, è una scrittura autoterapeutica, bellissima, eccetera, eccetera. Poi ha anche lo scopo appunto di parlare a noi, alle generazioni che ci seguiranno, perché è stato un evento assolutamente mitico, immaginario. Se non sono nominate tutte le donne, tutte quelle là, vi sono implicitamente nominate tutte le donne. Quindi non, tant'è vero, e poi se avete notato, solo fondamentalmente, sì, tutto un po' attraversato dalla militanza, così, però due capitoli in particolare sono dedicati a immaginaria, e cioè è racchiusa in due scene, una scena nel bunker, che è una scena di selezione, che ci serve per fare capire qual era fondamentalmente la programmazione che avveniva a immaginaria. E quindi lì vengono toccati alcuni temi, e poi c'è una scena dal vivo, c'è un'immaginaria dal vivo, però molto filtrata dal mio malessere, quindi così. No, niente, invece mi dicevi, esatto, a un certo punto quello che è, perché un altro dei temi che è stato preponderante, che è stato rilevato insomma da altre lettrici, è stato quello dell'abbandono. Infatti c'è il rischio che a Milano io debba andare a parlare unicamente di abbandoni. Sto cercando di pattuire degli altri argomenti, perché in effetti di abbandoni ce n'è abbastanza, voglio dire, no? C'è l'abbandono della madre, c'è l'abbandono di Marina, c'è l'abbandono di Ivana. Però insomma, poi mi sembra che alla fine, cioè a me piace sottolineare anche questo fatto, che questa protagonista a un certo punto, in modo assolutamente folle, cerca di salvarsi la vita, letteralmente salvarsi la vita buttandosi in una nuova relazione, no? Con tutti i rischi che questo comporta. E le succede di farlo contemporaneamente, cioè non si concede l'eleganza, anche perché non era per niente elegante quel periodo, di elaborare il lutto, metterci 6 anni, così via. Cioè, quindi che cosa fa? Sovrappone al disastro, perché di aver perso la compagna non era solo lei, era tutto un mondo di condivisione, di militanza, eccetera, eccetera, su questa angoscia, su questa disperazione totale, lei sovrappone una seduzione nei confronti di un'altra donna, tra l'altro diversissima, che non fa pratica, che ha percorsi completamente diversi, e in questo modo entra in un'orbita completamente diversa e in effetti si ci rinasce attraverso questa. E dunque non è neanche vero che non sai come è andata a finire, perché all'inizio non è che non lo sai personalmente, lo sai leggendo, perché a causa di forse questo meccanismo un po' reiterato dello sfruttamento tra passato e presente, in effetti si dice già all'inizio dell'ultimo capitolo, si dice che le due convivono. Anche se appunto c'è questa Virginia che noi vorremmo che vedesse più film insieme a noi e invece sta fissando lo slot della lavatrice che è montata sotto al televisore. Insomma, e questo ti fa capire che poi c'è tutto un percorso da fare di conoscenze, eccetera. Ma anche questo alla fine è giocato in un modo abbastanza divertente, ci sono dei dialoghi anche con l'anestesista che sono abbastanza carini. Io me ne sarei segnato uno, però non vi voglio tediare, abbiamo portato in uno di questi post-it c'era per l'appunto un dialogo. Allora siamo alle prime battute, io mi arrampico decisamente sugli specchi con questo perché sto malissimo, e però l'ho portata o no, veramente ci siamo portate sui colli, siamo in vista della città, siamo sui colli, e sono uno dei nostri primi dialoghi, una delle nostre prime uscite, no? Quindi io sono veramente sull'orlo del suicidio, cioè non di meno, un refolo ci passò davanti e scomparve nel boschetto, un uccellino lo raccolse e ci inghiottò, per bacco, forse stavo puntando troppo in alto, neanche per idea, nessuna impresa poteva intimidire la vecchia volpe che era in me. A tempo perso esercito l'agopuntura e la naturopatia, dice Virginia, aggrottare le sopracciglia. Ti spiego? Magari un'altra volta. La naturopatia ha un concetto olistico del corpo umano. Ecco. Uso anche il metodo Cusmine basato sull'alimentazione. L'intestino è la centrale del nostro benessere. Allora dovrei essere morta. Ti tratti male? Razzolo allo stato bravo, ma anche quello che mi piace. Fece una pausa. Facciamo un patto. Se avremo modo di approfondire la nostra conoscenza, prometto che seguirò attentamente le spiegazioni di naturologia e il metodo Cusmine. Naturopatia. Cusmine. Catherine Cusmine. È quella della crema Building. Cusmine. Non è Malta, anche se i pazienti dicono che le assomiglia. Pensi che sono una selvaggia, ne hai l'aria. È che vivo al di fuori di ogni cura del corpo, occidentale o orientale che sia, e fumi, e bevo. A quel punto per dare risposta alla questione di vita e di morte, o di morte, e mi affrettai a scegliere uno di cui non sapevo assolutamente niente. Quindi siamo morati dal fatto, finché si ha la forza di cazzeggiare, diciamo, questo francesismo. C'è speranza, insomma. Finché c'è vita, c'è speranza. Secondo me questo libro è politico. Adesso lei ci ha chiarito che nelle sue intenzioni c'è anche quest'altro aspetto che è importante. E ci ha spiegato che il suo motivo politico è anche questo, quello di mettere l'immaginaria dentro perché stia bene in memoria. Per noi che l'abbiamo letto c'è la storia delle donne, la storia delle lesbiche qua dentro, e immaginaria è una fetta, una grossa fetta di questa storia, quindi è un libro politico, ben fatto, per quello che è il nostro giudizio, insomma. E... è una traccia. Eh? È una traccia. È una traccia, sì, esatto, è una traccia che si può riprendere. Ti possiamo fare un'altra domanda, perché, perché questi tre capitoli e perché li hai nominati in questo modo, cioè il pantano, la foce e l'onda? Poiché, poiché la narrazione slitta costantemente sul passato e sul presente, no? C'era l'esigenza a un certo punto di, come dire, in ogni caso di condurre la lettura, di convogliarla su dei nodi concettuali. Allora, nonostante appunto questa mente vaghi costantemente dal passato al presente, si possono raggruppare grosso modo i primi capitoli, sono circa 8, insomma, non ha importanza. La palude è evidentemente l'origine, infatti si parla abbastanza della madre, della famiglia d'origine, dove sono presenti anche altri casi patologici, ahimè. La foce invece raggruppa una serie, per l'appunto, di capitoli che hanno a che vedere con la militanza, la costruzione, il tentativo, cioè, questa vita in fuga, questo allontanamento dalla famiglia d'origine, quindi questa costruzione di una nuova sì, vita, per quanto sempre bombardata dalla genitrice tentacolare che cercava di... E l'onda, ecco, vorrei chiarire che l'onda, naturalmente, è un moto verso, nessuno sa dove ci porta l'onda, quindi ci può travolgere oppure addirittura ci può risbattere all'indietro laddove forse non avremmo mai voluto ritornare, o invece ci può spingere al largo, però non abbiamo la presunzione di sapere dove ci spingerà. Beh, speriamo che ci spinga naturalmente verso delle cose. Sì, era tutto molto, vabbè, tutta questa cosa è nata ed è cresciuta fondamentalmente durante la malattia di Marina, ma non è nata per questo. Come vi dicevo e vi ridico, è una cosa che ho cominciato a fare nel 2004 e poi insomma, ci sono voluti tutti questi anni, non solamente per scrivere, perché era il mio primo libro, adesso mi auguro che il secondo non sia così. E poi è stato anche molto difficile, evidentemente, trovare l'editore, no? Questa è una parte del lavoro che io non vi racconto, però è stata una cosa estremamente difficile. Io ci ho anche cambiato lavoro. Tra l'altro, una grossa difficoltà di questo romanzo è che, a parte me, Marina e mia madre, questi sono tutti viventi, quindi io ho anche, insomma, ho dovuto in qualche modo usare i nomi veri che compaiono. Naturalmente sono stati liberati, cioè ho avuto la liberatoria, e poi ci sono una serie di cose che sono state leggermente manipolate, dei nomi fittizi, insomma. E quindi c'era questo bisogno da parte mia di fermarla questa cosa, perché è esistita. E quella è durata sentire. Allora, se posso portare a conclusione, intanto ringraziamo tutte di essere venute qua, di aver fatto questa lunga, perché è stata anche la manifestazione, e ringraziamo tantissimo Cristina Zanetti per questa sua opera prima, aspetteremo la seconda. E, il libro si trova alla libreria Liberamente, in via del Pellegrino, e c'è lì. Feltrinelli si vanno a chiedere. Anche, ha detto Cristina, anche a Feltrinelli, noi ovviamente promuoviamo come Casa Internazionale delle Donne la libreria Liberamente, e lì appunto c'è lei. E quindi niente, questo era quello che volevamo dire. E tutto qua. Quindi buona lettura per chi ha voglia. E ancora tanti ringraziamenti a tutte e un abbraccio particolare alla nostra Cristina. Grazie. Bene, questo era il resoconto della presentazione del libro che, ricordo, si intitola Stop Movie.